Zot. Fulminati in azienda. Allora Lori, la mia capa del call center, come va lì sotto da voi? Direi bene, bene. Il team è giovane, affiatato, sì? E adesso che ci avete aperto anche la seconda finestra, gira un po' più d'aria. Tutto bene, tutto bene. Fa piacere, sono contento. Se non fosse per i clienti. Allora, non mi dica che i clienti vi disturbano il lavoro. Guarda, chiamano a tutte le ore, hanno richieste assurde, si lamentano di tutto. No, vabbè, ma scusa, spiegami un attimo, ma che cos'hanno da lamentarsi? Già gli facciamo una cosa democratica che gli permettiamo di telefonarci, che abbiamo lì stuoli di persone inchiodate a rispondere alle loro lamentele. Questi sono proprio ingrati, sti clienti sono ingrati. Sì, stanno sempre lì a sottolineare ogni piccolo disservizio, ogni piccolo difetto dei prodotti. Non se può. Ci rinfacciano continuamente che non gli diamo un buon servizio. Sì, ma non ho capito, ma chi è che lo decide se un servizio è buono oppure no? Adesso ci lasciamo giudicare dai clienti. Capo, il problema è che abbiamo fatto il call center e mo' ci tocca scortarli. Se vogliamo essere orientati al cliente ci tocca, è un problema. Ma quale orientati al cliente? Uè, noi siamo qui per guadagnare. Super consulente, ma quando mi hai messo sul call center il numero verde, non mi avevi detto che i clienti ne avrebbero approfittato per sfogarsi di tutti i loro problemi con i nostri operatori? Siamo mica al telefono amico. Beh, con la dottoressa Font avevamo concordato che un'azienda che vuole ascoltare il cliente deve dargli la possibilità di comunicare con l'azienda. Ma certo, bisogna creare una relazione di interscambio e sono necessari due canali. Io emetto, l'altro riceve il messaggio, lo decodifica e mi dà il suo feedback. Mi restituisce indietro il suo sentito. Uè, sentito, ma qui da dietro ci stanno restituendo di tutto. Ma la domanda è, ma perché gli abbiamo dato diritto di parola? Ma guarda, probabilmente possiamo trovare un altro mezzo di comunicazione che comunque ribadendo il concetto di customer oriented. Propongo un risponditore automatico, un albero fonico che vi consenta di selezionare le richieste che giungono al call center e di conseguenza al servizio clienti, all'ufficio reclami e al fondo rimborsi. Ma bravo super consulente, vedi che ci siamo capiti. Del resto, come ho già detto, siamo qui per vendere, mica per risolvere i problemi dei clienti. Mazza, gagliardo st'albero fonico, eh? Lo vedete che a cercarla la soluzione si trova? Lateral thinking! Comunque, come funziona sto albero fonico? Noi consulenti abbiamo ideato un risponditore automatico che indirizza il cliente che ci chiama verso l'ufficio più opportuno per esaudire la sua richiesta. Bellissimo, ma la domanda è, la macchina riesce anche a capire chi vale la pena di ascoltare e chi no? La selezione funziona così: prima di azzeccare il tasto giusto l'utente deve superare parecchie prove e una volta azzeccato non è detto che l'operatore con cui entra in contatto sia quello giusto. In tal caso deve riagganciare e ricominciare da capo. In pratica, no, se il cliente si addentra na giungla fonica, mette a prova la sua capacità di resistenza e nel duro percorso per entrare in contatto con l'operatore si chiederà: da quanto tempo sto qua attaccato al telefono? Ne vale veramente la pena? Forse che posso risolvere il conto mio? Ma è geniale. Ma tra l'altro noi così scateniamo nei clienti un po' di proattività. Chissà quante volte il cliente se la potrebbe cavare da solo, invece chiama noi per farsi aiutare. Facciamoli crescere questi clienti. È provato infatti che la giungla fonica innesca una durissima selezione tra i clienti chiamanti. Il concorrente da cui abbiamo copiato questa soluzione si vanta di aver ridotto dell'80% il numero di chiamate arrivate al call center. Bravo super consulente, bravo. Con tutte le richieste assurde che riceviamo, una sana scrematura era indispensabile. È presente il robottino che vendono alla televisione? Questo seleziona, affietta, centrifuga e elimina pure le scorie. Se vuoi saperne di più, www.zoot.tv 3Z2O 1T.